Bologna al centro di questa edizione, mi pare, questa 11ª edizione. Che ruolo ha Bologna in questa? Beh, intanto Bologna è la casa di Figurine Forever, è la nostra città che in questi anni ci ha dato tante possibilità di realizzare iniziative con una collaborazione direi molto vasta: il Comune di Bologna, il Bologna Football Club, la Fortitudo, tante realtà del sociale, del mondo dell'associazionismo. Era giusto premiare, come dire, ringraziare Bologna. Il modo migliore non poteva che essere fare una figurina particolare dedicata ai portici di Bologna con un testimonial d'eccezione che è l'arcivescovo Zuppi, che è appunto immortalato nella figurina con una foto meravigliosa sotto i portici. Potrebbe parlarci anche di altri protagonisti che prenderanno parte a questa edizione? Allora, intanto i protagonisti principali saranno i collezionisti, perché il Figucon ha questa particolarità che raccoglie persone dai 5, dai 4 ai 900 anni, che si ritrovano all'Estragon per scambiare figurine di ogni genere, dal calcio ma anche ai Pokémon, ai cartoni animati, qualsiasi cosa. Gli altri protagonisti saranno Paolo Mengoli, che gli abbiamo realizzato la figurina solidale, che ci sarà alle ore 14 sul palco di Estragon, e sempre sul palco di Estragon ci sarà una sorta di prequel di quello che accadrà alle 18 al Paladozza, con un Fortitudo Day, un orgoglio Fortitudo dedicato a Ruben Douglas, con la presenza di diversi ex campioni della Fortitudo, da Jack Galanda, da Davide Lamma, Nino Pellacani. Ci sarà Robert Pulf, che ha giocato in Fortitudo, il papà era il mitico Cocis della Virtus, e poi soprattutto ci sarà Ramon Douglas, il fratello di Ruben, arrivato dagli Stati Uniti per il ritiro della maglia ma anche per la consegna della figurina. Un sacco di ospiti d'onore, quindi. Lei comunque ha menzionato anche le figurine solidali, c'è anche un aspetto chiaramente di beneficenza solidale. Certo, c'è la parte ludica, però ha sempre uno scopo solidale, che può essere sia una raccolta fondi ma anche il mantenere viva la memoria storica, anche quella sportiva e sociale. L'obiettivo del Figucon è appunto raccogliere fondi, quindi il ricavato dai biglietti d'ingresso andrà tutto al progetto Adotta con la Figurina, così come tutte le figurine solidali che realizzeremo, che abbiamo realizzato, siamo già superate le 300. In più, sempre su questo aspetto, un dettaglio importante è il progetto Adotta con la Figurina permette anche alle persone di donarci le figurine non utilizzate, che noi rimettiamo sul mercato, e con quello facciamo le adozioni a distanza. Da pochi mesi abbiamo superato 1 milione di figurine cardonate in 5 anni, direi che è un buon risultato.